D'altra cosa era stato il volar bassi sul gruppo di isole che costituivano il Giappone. Aiwan, guardando dall'alto il paese che sorvolava ora a bordo dell'apparecchio, pensava con orgoglio che un paese come quello era immune da qualsiasi minaccia. Per ore e ore volarono nel cielo del solido e compatto continente cinese. Quello era un paese. Si abbassarono per seguire 1.000 miglia di un fiume largo e giallo che scorreva attraverso verdi terre e pallidi deserti. Poi risalirono per valicare catene di monti dalle cime immacolate e gelide. Invalicabile terra. Una volta Yuan si era vergognato leggendo in un giornale giapponese che in Cina non esistevano strade degne di questo nome, per poco che ci si scostasse dalle zone costiere. Arretrato paese, scriveva l'articolista, per lo sviluppo del quale i cinesi non hanno fatto mai nulla. Eh sì, era quello un paese così arretrato da essere sprovvisto di strade per il passaggio del nemico. Solo il cielo era aperto. Soltanto per le vie del cielo si poteva passare e tuttavia neanche le bombe sarebbero riuscite a distruggere un paese come quello. Aiwan si ricordò di qualcosa. Nei 2 giorni precedenti la sua partenza per Nanchino, dove aveva incontrato Chiang Kai-shek, egli aveva percorso in lungo e in largo Shanghai in compagnia di suo padre, per vedere quanto la città avesse sofferto. Ovunque era devastazione. Presi da una crescente angoscia, chiusi in un disperato silenzio, erano passati dall'uno all'altro luogo, vedendo dappertutto rovine. Ma al limitare della città avevano trovato un contadino in atto di piantare dei cavoli, tranquillamente accovacciato sui calcagni mentre lavorava. La sua casa era sparita, lo diceva quella baracchetta di fortuna, eretta alla meglio con stuoie che sorgeva laggiù. Padre e figlio si erano fermati un momento a guardarlo e poi, dato che qualcosa doveva essere detto, il padre aveva pronunciato qualche parola. Peccato, peccato proprio che anche la vostra casa sia andata. Il contadino aveva alzato gli occhi, aveva contratto il volto in un sorriso che pareva una smorfia, si era asciugato il volto con la sciarpa di cotone azzurro che portava al collo e poi, alzando il mento verso una profonda buca al limitare del campo, piena d'acqua, «La mia casa era là», disse con bonomia. «Era una buona casa, costruita da mio nonno, ma non importa, nessuno di noi ci è rimasto sotto, eravamo tutti fuori a lavorare quando arrivò la bomba». E quando vidi l'acqua filtrare dalla terra e riempirla, dissi a mia moglie: Toh, avevamo sempre sentito il bisogno di uno stagno e ora ce l'abbiamo. Così dicendo, l'uomo aveva riso fragorosamente, proprio di gusto. Loro avevano fatto eco alla risata e avevano proseguito la triste peregrinazione alquanto sollevati. Le rovine avevano perso il loro significato. Per tutto il giorno l'apparecchio proseguì la sua rotta ruggendo nel cielo. Il pilota era un giovane americano col quale Aiwan non aveva fatto in tempo a scambiar parola. La signora Chang aveva fatto rapidamente le presentazioni mentre già l'apparecchio era pronto a spiccare il volo. Danny McGurk e il signor Wu. Piacere, aveva detto l'americano e con un balzo aveva preso posto sul suo seggiolino. La signora Chang aveva poi consegnato loro un sacchetto. La vostra colazione, aveva detto. Aiwan non si sarebbe accorto che l'ora del mezzodì era arrivata se non avesse visto McGurk mangiare con una mano pilotando con l'altra. Aprì il sacchetto. Conteneva del prosciutto tra fette di pane esotico, un dolce scuro e cremoso, anche quello non cinese, e una mela. Aiwan non aveva mai mangiato un cibo come quello, ma lassù, nell'aria fina e fredda, gli fece pro. McGurk si voltò, gli fece un cenno col capo e urlò qualcosa che si disperse col vento prima che Aiwan potesse afferrarne il significato. Come mai? Si domandò. Quel ragazzone americano si trovava lì, a pilotare un apparecchio per un generale cinese. Ma più di una volta aveva sentito dire in casa Muraki che nessuno riusciva a capire gli americani. Così restò seduto al suo posto per tutto il pomeriggio fino al crepuscolo. L'apparecchio planò attraverso una nuvola, picchiò giù per una valle e atterrò in un campo raso al limitare di un villaggio. Subito fu circondato da soldati e poi da una folla di contadini e di ragazzotti attoniti. McGurk saltò giù dal suo seggiolino e Aiwan piuttosto faticosamente lo imitò. «Passeremo qui la notte», disse McGurk. Domani all'alba ripartiremo e finiremo il viaggio dopo mezzogiorno. Poi, con la sua più allegra voce, ehi, dite un po' a quei soldatini di piombo che questo è l'apparecchio del loro arcipadrone e che il primo che lo tocca si prenderà una scarica di legnate. Dite loro di tener d'occhio i marmocchi. Chiuse tutte le portiere dell'apparecchio nel miglior modo che poté e Aiwan, traducendo, comunicò l'ambasciata ai soldati. È l'apparecchio del generalissimo in missione ufficiale e ne siete responsabili voi stanotte. Sta bene, risposero i soldati salutando. Aiwan, mentre seguiva McGurk, poté udirli che arringavano minacciosamente la folla impaurita. Mettete un solo dito sull'apparecchio e vedrete che cosa vi capiterà, figli di tartarughe. Alitateci soltanto sopra e ne vedrete delle belle. Spero che si possa stare tranquilli, disse con una smorfia McGurk. Perdinci, ma come mi sento intorpidito! E stanotte, se la va bene, si dorme su un tavolaccio qualunque, brontolò. E soggiunse. E gnocchi, nient'altro che gnocchi da mangiare, per l'inferno. Basta però che non ci siano troppi pidocchi e dormirò su non importa cosa. Aiwan non rispose, tentò di sorridere, ma si sentiva in certo modo colpevole della mancanza di un luogo decente in cui alloggiare. Mai stato negli Stati Uniti? Domandò bruscamente McGurk, mentre procedevano l'uno a fianco dell'altro. I loro passi sollevavano nuvolette di polvere asciutta, alcalina, ne avevano piene le nari. No, mai, rispose Aiwan e soggiunse con diffidenza, ci si deve star bene. Oh, quel che Dio fece, disse con fervore McGurk guardandolo con una smorfia. Perché diavolo non posso rimanerci, non lo so, ma tutte le volte che torno a casa non vedo l'ora di battermela di nuovo. Tipaccio sono. E risero, mentre varcavano la soglia della profonda e fresca porta praticata nelle mura di fango del villaggio. Li seguiva alle calcagna un codazzo di monelli attoniti e di oziosi, ma l'americano ci sembrava abituato. L'oste si precipitò al loro incontro, chiacchierando allegro. Afferrò la mano di McGurk e la scosse vigorosamente dall'alto in basso. «Hello, vecchio figlio di una carabina!» gli disse McGurk a mo' di saluto. Poi, volgendosi verso Iwan, non ci capisco un'acca di tutto quello che mi boffonchia tutte le volte che lo incontro, ma almeno gli ho insegnato a stringere la mano come un bianco. In certo senso ho la vaga impressione di essere a casa mia quando capito qui per la notte. L'oste si profondeva intanto in inchini davanti ad Iwan. Entrate, signore, entrate a bere un po' di tè, poi vi laverete e riposerete. Guardò Aiwan con l'espressione di chi si vergogna. Questo bianco, gli disse poco dopo, è naturalmente un poco. E si batté la fronte e sospirò. Ma io lo tengo allegro, lo tengo sempre allegro io. A buon cuore, rispose Aiwan, che non voleva ridere. Ah, certo, ammise l'oste. Poi, vedendo le dimensioni della moneta che Aiwan gli poneva in mano, raddoppiò di zelo e si precipitò verso la folla che continuava a curiosare sulla strada. Via, via! Gridò. Non è un uomo questo? Mai visto prima un essere umano? La folla arretrò, l'oste le sbatacchiò l'uscio in faccia e lo sprangò. Dovete scusare, signore, disse poi ad Aiwan. Un forestiero qui è una rarità? Di che paese siete, signore? Ma io sono cinese, rispose sorpreso Aiwan. Cinese? Il volto grinzoso dell'oste era pieno di meraviglia. Non lo avrei mai detto. Quei vostri abiti. Oh, molti cinesi vestono all'occidentale, disse Aiwan piuttosto urtato. Ma il vostro modo di parlare non vi pare cinese? Oh, capisco certo quello che dite, ma le vostre parole non sono del tutto esatte, rispose il vecchio. Poi, nella tema di offendere un buon cliente, soggiunse: Ma ho sentito dire che ci sono molti tipi di cinesi, tipi lunghi e tipi corti, questo lo so, non per nulla faccio qui l'oste da 40 anni. E ora ditemi, signore, mangiate carne voi o no? Se non ne mangiate, ho dei buoni piatti di legumi. Mangio carne, rispose piuttosto seccamente Aiwan, ancora un po' irritato, e lo rimase per tutta la serata per un motivo che non gli riusciva di spiegarsi. Noi cinesi, continuava a ripetere il vecchio oste mentre li serviva. Noi cinesi non siamo così schifiltosi come i bianchi. Ora questo bianco qui, e di nuovo si batté la fronte dietro al testone rosso di McGurk, questo bianco qui urla quando la sua carne non è tenera, costringendomi a tritargliela come si fa con un bambino. Poi vuole una coperta supplementare sul letto e fa un chiasso d'inferno se ci trova dentro qualcuno degli insetti che pure noi cinesi sappiamo che devono vivere. Non hanno anche gli insetti una vita? Continua a domandargli, ma lui non capisce mai una parola di quanto gli dico. Era, ahimè, troppo vero che la carne era dura e che il letto di assi gettate su due sostegni di argilla secca era durissimo. Nella notte, per sopramercato, Aiwan sentì qualche cosa che gli camminava sulla pelle. Saltò su, si scosse e stava per gridare. Poi accese la piccola lampada a olio e di nuovo si coricò. Noi cinesi, aveva detto il vecchio oste. Passò finalmente la notte e di nuovo furono in volo, il fermo profilo di McGurk volto verso nord-ovest. Ora sorvolavano delle montagne, lunghe catene di aride montagne color dell'argilla. Le strade segnavano il terreno con profondi solchi scuri e laggiù, davanti a loro, era un miraggio. Aiwan non s'accorse che gli alberi e le acque che vedeva laggiù erano un miraggio, se non quando, dopo ore di volo, si rivelarono irraggiungibili, chimerici. Il pasto meridiano consisté questa volta di molli e freddi panini all'aglio di cui si erano provveduti all'osteria, riempiendosene le tasche. Ben diversi dal pane bianco di esotica confezione che la signora Chang aveva dato loro il giorno innanzi, avvolto in un foglio di carta bianca e pulita. Questo pane era grigio e compatto e l'aglio era forte, ma sfamava. Poi, a metà pomeriggio, McGurk tolse improvvisamente il gas e l'apparecchio cominciò a calare obliquo verso terra. «Ecco!» gridò il pilota ad Aiwan. Aiwan guardò in basso e vide un villaggio cinto da mura quadrate che sorgeva nella pianura come un blocco. Fuori erano campi e nell'interno, nei cortili delle case, spesseggiavano bassi alberi. L'apparecchio continuò a scendere mentre dai campi figurine in abiti azzurri gridavano e deposte le zappe accorrevano verso i sopraggiunti. «Siete nel cuore dei rossi!» gridò McGurk ad Aiwan con uno dei soliti sorrisoni che parevano smorfie. «Oh, sono come tutti gli altri!» osservò. L'apparecchio urtò leggermente contro il terreno e ora ci rullava sopra. Questo che ora incontrerete è un tipo in gamba. Madama Chang mi ha ordinato di condurvi direttamente da lui. Su via, venite. Saltarono giù dai loro seggiolini e di nuovo Aiwan seguì il suo compagno. Aveva fermamente creduto che Enlan fosse morto. Aveva sempre pensato a lui come a un trapassato. Come, dunque, poteva ora credere ai suoi occhi? Erano arrivati alla porta del villaggio. L'avevano varcata e subito dopo, superato un altro portone, erano arrivati in un cortile pieno di uomini allegri. Attraversato il cortile, erano finalmente entrati in una stanza dall'impiantito di terra e dai muri di fango. A una tavola di legno grezzo sedeva un uomo che, vedendoli arrivare, alzò gli occhi. Era Enlan! Per un momento lui e Daiwan si guardarono esterrefatti. 10 anni erano passati. 10 anni pieni di traversie, ma era lui. Aiwan lo riconobbe di colpo. Questo signor Wu ha una lettera dal mio capo, disse McGurk. I due non lo ascoltavano, gli occhi negli occhi. Non sei davvero tu, Aiwan? Disse lentamente Lan. Sono io, rispose Aiwan. Ma come posso credere che tu sia in Lan? Si avvicinarono e si toccarono reciprocamente le spalle e le braccia e finirono con lo stringersi forte le mani. Sì, quella era la mano di Enlan, ma più grossa, più callosa e più forte di quella di un tempo. Dove sei stato? Domandò Enlan. Non ho mai più sentito parlare di te. Peonia venne di corsa ad avvertirci quel giorno, ma tu dov'eri? Ti abbiamo aspettato fino all'ultimo momento, trepidando di vederti comparire da un istante all'altro. Mi pare che vi conosciate, interruppe McGurk. Vedo che non mi resta che andare a dare un'occhiata all'apparecchio. Avrà bisogno di una messa a punto per la ripartenza di domani. I due né lo videro né lo intesero. Peonia, ripeté stupefatto Aiwan. Era dunque venuta da voi? È qui, disse Lan. Ma siedi, Come mai faremo a dirci tutto? Batté le mani e subito comparve all'uscio un ragazzo in una divisa color terra. Fai venire Peonia, disse Enlan. Peonia? Tu! Balbettò stupefatto Aiwan. Sposati, lo siamo da 10 anni. Da 10 anni? Ma perché non mi avete mai scritto nulla? Ti abbiamo scritto, firmando con nomi falsi nella speranza che tu capissi. Ma io non ho mai ricevuto lettere, esclamò Aiwan. Eppure le abbiamo indirizzate a casa tua. Ah, immagino che mio padre abbia temuto ad inoltrarle, disse Aiwan dopo breve riflessione. Sì, suo padre era il tipo di trattenerle, per poco che le avesse ritenute compromettenti. E tu, perché non hai scritto tu? Domandò Enlan. Ma ti credevo morto, rispose Aiwan, e come avrei potuto sapere del resto dov'era Peonia? Di nuovo si guardarono scrutatori, cercando di intravedere dietro le loro figure d'uomini i ragazzi che erano stati rispettivamente. Aiwan pensò: posso parlargli di Tamà? E tu? Che cosa ne fu di te? Domandò Enlan. Sei sposato? Hai figli? Sì, rispose Aiwan. Avrebbe voluto dirgli tutto, parlargli di Giro, di Gangiro, ma no. Era meglio non parlare di Tamà, meglio tenere segreto il suo nome. Sì, ho 2 figli, disse con semplicità. Improvvisamente udì un passo affrettato e capì che era Peonia che sopraggiungeva di corsa. Peonia, quella donna sottile, vestita in una divisa maschile, con un berretto militare sui capelli corti, senza rosso sulle labbra, senza cipria sulla pelle bruna, senza profumo di gelsomino, e con quella sua ferma mano decisa. Quella non era la mano di Peonia. La mano che allora tremava come quella di un uccellino. Aiwan! Aiwan! Aiwan! Non faceva che ripetere. Si tolse il berretto, lo lasciò cadere sul pavimento e allora egli vide che era proprio lei, ma non era più la ragazza carina, un po' testarda, malinconica che aveva conosciuta. Quella Peoni era la moglie di Enlan. Aiwan sedette. Mi tremano le gambe, confessò. Non posso subito rendermi conto di quanto succede. Lo vedeva bene ora, che era stato come addormentato per tutti quegli anni vissuti con Tamà, che la vecchia vita di un tempo non era morta, come aveva creduto. Come mai è accaduto questo? Domandò. Come hai potuto fingere allora di odiare i rivoluzionari, Peonia? Non odiai lui? Rispose Peonia, allungando il mento grazioso verso Enlan. I suoi occhioni a forma di albicocca assunsero un'espressione timida. Aiwan, guardandoli, notò che da allora non erano affatto cambiati. Ma non lo conoscevi ancora? Esclamò Aiwan. Non lo avevi veduto che una sola volta. Enlan sbottò a ridere, mentre Peonia arrossiva. Ah, lo conoscevo già un poco prima di incontrarlo, confessò. Su, via, le ordinò Enlan, raccontagli la tua malvagità. Ecco. Un giorno pulivo i tuoi cassetti, cominciò lentamente Peonia. Proprio l'altro giorno mi sono accorto che dai cassetti mancava qualche cosa, disse Aiwan, e anche lui rise. Trovò quel mio racconto, quello che avevo scritto, ricordi? Esclamò Enlan. Rubò tutto quanto, lesse e prese lì, su 2 piedi, la sua decisione. Peonia sedette sull'orlo di una sedia, mordendosi le rosse labbra. Toccava a me tenerti i cassetti in ordine, Aiwan, disse con una espressione di malizia negli occhi. Eh già, è vero, ammise Aiwan. E risero insieme, e Aiwan parve di non aver mai riso meglio con più allegria, ma improvvisamente si ricordò del motivo della sua presenza in quel luogo. Chiang Kai-shek, disse, colui che ci ha separati ci ha di nuovo riuniti qui. Sono qui in missione per suo incarico, con questa missiva che voi dovrete consegnare nelle mani dei vostri compagni. Così dicendo, trasse da una tasca interna una lettera sigillata che gli era stata affidata e la consegnò ad Enlan. Ero stato in attesa di questo, ma non di te, rispose Enlan, e non devo tardare. I miei compagni sono anch'essi in attesa. Aspettami qui. Prese la lettera e uscì. Aiwan, rimasto solo con Peonia, scambiò con lei un lungo sguardo. Poi Lei cominciò a tempestarlo di domande sui suoi genitori, sui nonni, sulla casa. Egli rispose con semplicità, come comunicando notizie familiari, che Ankeiko era sposato, ma non disse nulla che sua moglie era una bianca, perché che necessità c'era di dare quell'informazione? E tacque anche di Tamà, per istinto. Peonia ascoltò tutte quelle comunicazioni con un'espressione via via più attenta e ora agli occhi di Aiwan più simile alla Peonia del suo ricordo. Eppure erano passati 10 anni, 10 anni, che certo pesavano di più su di lei che non su di lui. Di lì a poco ricomparve Lan con un'espressione insieme grave e ilare. Rivolto a Peonia disse solennemente: quello che avevo predetto che sarebbe avvenuto è ora realtà. Chang chiede che si uniscano le nostre forze. Peonia uscì in un grido di gioia. Aiwan vide subito che i due erano legati da qualcosa di più che l'amore. Sì, Peonia, te l'ho sempre detto. Chiang Kai-shek è un grand'uomo e ha ragione, disse Lan. Beh, ora devo dare la notizia ai miei soldati. Certo, non si piegheranno subito alla nuova idea, ma ciascuno di noi deve parlare al proprio reparto. Terremo una riunione ed esibirò la lettera. Guardava Peonia chiedendo con lo sguardo la sua approvazione e la assentì col capo. Devo andare a dire che battano il gong della dunata? Domandò. Sì, vai, le ordinò Ilan. No, no, aspetta, fra una mezz'ora. Aiwan deve rinfrescarsi e io devo restare solo per un poco. È rimasto fedele al sistema di scrivere prima quanto dirà nei suoi discorsi, spiegò Peonia. Aiwan sedette sulla terra asciutta, cotta dal sole della piazza d'armi. Accanto a lui era Peonia. Tutto in giro a loro sedevano alla rinfusa uomini e donne, tutti giovani. La dura e brillante luce del nord batteva sulle loro facce abbronzate ed era difficile distinguere di primo acchito gli uomini dalle donne. Ma tutti i visi erano rivolti in ascolto verso Enlan, che parlava quasi a portata di braccio di Aiwan. Questi, ascoltandolo, si sentiva stranamente ricondotto ai tempi della sua adolescenza. Unica diversità, il numero degli ascoltatori. Un tempo Enlan parlava tutt'al più a una ventina di ragazzi, ora lo ascoltavano centinaia d'uomini. Come era riuscito a salire così? Mentre lui lo credeva morto, Enlan si era prodigato per la causa cinese. Chissà come, ad onta di infiniti ostacoli, era lì, forte e vivo fra quegli uomini. Enlan diceva con voce che risuonava chiara e alta nell'aria ferma: voi sapete quello che abbiamo fatto. 6 anni or sono abbiamo dichiarato la guerra al Giappone tra l'irrisione dei giapponesi. Poi, 3 anni dopo, compiemmo quella che venne chiamata la nostra lunga marcia. I piedi ci dolevano, morivamo di fame, molti di noi infatti perirono, ma anche allora non ci dimenticammo del vero nemico. Chiang Kai-shek ci incalzava, ci ricacciava per migliaia di chilometri nell'interno della Cina, ma anche allora noi sapevamo che c'era un nemico più grande di lui. Alzò la voce. Il nostro nemico era il Giappone, che già allora attaccava la nostra gente. Fece una pausa. Dai gruppi si alzò un mormorio vasto e minaccioso. Enlan levò il braccio con un gesto che toccò il cuore di Aiwan, tanto gli era noto e familiare. Quello che vi dico lo sapete. Non molti mesi or sono Chiang Kai-shek fu catturato a Xi'an. Noi lo tenemmo qui, era in nostre mani. Protese la mano forte, raccolta a coppa. Avremmo potuto intrappolarlo così. E chiuse la mano. E proseguì. Egli allora avrebbe cessato di esistere. Il nemico che ci aveva duramente combattuti per tanti anni era in nostro potere. Riaprì la mano. E la guardò. La folla intorno ascoltava, trattenendo il respiro fissa a lui. Egli alzò gli occhi dalla mano. Alcuni di voi dissero: ammazzatelo! Ammazzatelo! Se i vostri capi vi avessero ascoltato, egli sarebbe morto nel termine di un'ora. Allora voi ci biasimaste perché non ci muovemmo. Ci biasimaste perché fu lasciato in vita e libero di tornare salvo alla sua casa. Tra voi c'è ancora qualcuno che è in collera sapendolo vivo. Lasciò cadere le mani ora. E le tenne leggermente intrecciate. Era fra i doni di Enlan costringere la folla al silenzio e alla sottomissione. Aiwan risentì anche lui il vecchio potere di Enlan, ma infinitamente più profondo e perfetto. Ma noi ci ricordammo del vero nemico, il vero nemico non è lui. E vi dicemmo allora, se è stato capace di perseguitarci così spietatamente per anni e anni, altrettanto potrà fare per il nemico. E gli dicemmo, vuoi combattere il Giappone? Egli rispose, fino alla morte. Perciò lo lasciamo andare. Ora gli ascoltatori sentivano quello che stava sopraggiungendo, sapevano che il terribile potere che emanava, crescente da Elan, avrebbe chiesto loro altri sacrifici. Il suo sguardo si fece ardente, la voce si approfondì, egli torreggiava in mezzo a loro, tutti gli occhi erano fissi su di lui. Oggi egli è il solo che possa guidarci nella guerra, non c'è altri all'infuori di lui. I gruppi si agitarono. Tu! La parola rompeva qua e là, ma Elan la raccolse e la ributtò, per così dire, lontano. No, non io. Io sono un comunista. La Cina non seguirà capi comunisti. E il Giappone continuerebbe ad addurre come pretesto per la continuazione della guerra, la Cina è comunista. Lo adduce già. No, noi dobbiamo servire il nostro paese, non il nemico. Tutti tacquero. Quello che diceva Elan era vero. Ma che cosa avrebbe detto ancora? Uno solo può salvarci, soggiunse. Colui che in apparenza ci è stato nemico, lui può salvarci, a patto che noi si militi sotto la sua bandiera, non che egli militi sotto la nostra. Allora, che cosa potrà più dire il nemico? Davanti al mondo intero noi saremo un popolo unito, che unito combatte. Aiwan, guardando Elan, in cuor suo singhiozzava. Quel giovane, quell'uomo magnifico che domandava ai suoi fidi quel supremo sacrificio, che raccomandava loro di assoggettarsi a colui che un tempo li aveva perseguitati, chi, se non Elan, poteva avanzare una così enorme richiesta? Dimenticate chi siete, ordinò, ricordate soltanto che siete cinesi. Non un suono, non una parola. Peonia al fianco di Aiwan lisciò il terreno con una mano e poi tracciò col dito due caratteri. Cina. Quelli che accettano, alzino la mano, ordinò Elan. 100 e 100 mani si alzarono. E ora la alzino coloro che non accettano. I suoi occhi fiammeggiavano. Nessuno osò. Egli lasciò ricadere la testa e si voltò. Lentamente, come svegliandosi da un sogno, i gruppi cominciarono ad alzarsi. Qualcuno si allontanava, altri rimanevano a discutere, ma era finita. Tutti avevano fatto quello che Lan voleva. Aiwan vide l'amico attraversare a gran passi il cortile e avviarsi verso la sua stanza. Peonia si alzò in fretta e lo seguì. Dopo sforzi come questo è sempre stanco, mormorò. Qualche cosa esce da lui. A rapidi passi s'avviò anche lei verso il cortile. Aiwan, dopo un momento, andò al campo dove McGurk era intento ad oliare l'apparecchio. Non si era ancora riavuto dallo sbalordimento per quanto aveva visto e udito. Tutto pareva un sogno. Quando fosse di nuovo stato davanti a Chang, avrebbe detto: Lasciatemi tornare. Sì, doveva tornare. E Lan si prodigava per il suo paese come ai vecchi tempi. Quando ripartiamo? Domandò a McGurk. Alle 4 di mattina, rispose l'americano. Accennò alla folla che si disperdeva e domandò: Ha ottenuto quel che voleva? Sì, disse Aiwan. Grand'uomo, osservò McGurk. Quasi altrettanto grande come il capo, per quanto non proprio come lui. Perciò io resto attaccato al capo. Allora mi troverò qui alle 4, finì col dire Aiwan, non sapendo quale altra risposta dare. Bene, avrebbe detto a Chang, laggiù è il posto dove io posso servirvi meglio. E non c'era motivo di ritardi. Se Chang avesse permesso, avrebbe potuto essere di ritorno nel termine di 5 giorni. Benone, rispose McGurk e cominciò a fischiettare fra i denti mentre ripuliva le ali dell'apparecchio.